4 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Alle 8, 17 minuti e 40 secondi inizia la terza parte di 24 Mattino di questo venerdì 6 marzo. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Simone Spezia e buongiorno Maria Latella. Buongiorno, buongiorno Simone, buongiorno a tutti coloro che ci ascoltano questa mattina. Allora, torniamo, sì, si prepara il fine settimana, per molti non tanto diverso in realtà dal resto della settimana per tutti i motivi che ben sappiamo, le scuole chiuse, la difficoltà ad andare al lavoro, forse un attimo un po' più di relax nei prossimi due giorni. Cara Maria, ti vorrei coinvolgere subito perché so che stai dando un occhio, no, in questi giorni a come si stanno comportando gli altri, non solamente noi, a fronte del coronavirus. Sì, cosa hai raccolto? Di vedere come i media dei paesi a noi vicini trattano la questione coronavirus. E beh, allora, per quanto riguarda per esempio la Francia, guardiamo a quello. Il titolo di Libération è che finalmente sul Covid-19 la Francia toglie il velo, il che significa che prima ce l'aveva e quindi cominciano a essere un po' più attenti alla questione. Ciò detto, viene trattata sempre in chiave positiva, perché per esempio Le Figaro insiste, no? E qui c'è l'orgoglio francese, l'Istituto Pasteur ha aperto le porte al Figaro per vedere come sta andando la corsa al vaccino. Quindi c'è questo messaggio sottilmente positivo: francesi, state tranquilli, il nostro Istituto Pasteur è quasi sulla buona strada per trovare il vaccino. E l'ultima cosa che va detta, tanto per dare un'idea, Libération, che è il quotidiano un po' della sinistra francese, non attacca in nessun modo quello che sta facendo il governo, ma si concentra sulla corsa a sindaco di Parigi, che vede, oggi siamo quasi alla vigilia dell'8 marzo, quindi diciamolo, vede in corsa due donne, l'attuale sindaca Anne Hidalgo e la sua sfidante, che forse molti ricorderanno è stata ministra della giustizia con Sarkozy, Rachida Dati. E quindi questa è la prima notizia per Libération, il coronavirus. Non il coronavirus. Beh, insomma, da loro non è arrivato nelle dimensioni nelle quali è arrivato da noi. Ricordiamo i numeri. A parte che non lo sappiamo. Ricordiamo ai nostri ascoltatori. Ce l'hanno i numeri ancora. Sì, cioè, certamente. Ricordiamo in ascesa. Sì, ricordiamo ai nostri ascoltatori i numeri di oggi. Si parla di circa 3.200 persone contagiate, sono oltre 400 ormai guariti nelle ultime due settimane, 148 le vittime erano in media, e i dati sono stati diffusi oggi, cioè finalmente c'è uno studio, no, che li analizza, erano persone in media di 81 anni con spesso una, due, tre patologie ulteriori, insomma, il che non vuol dire, lo ricordiamo sempre agli ascoltatori, non vuol dire siamo contenti che queste persone siano morte, vuol dire semplicemente è un dato epidemiologico. Fotografare, ecco, qual insomma, è la, no? Diciamo, la sezione di italiani più esposti, e se vogliamo stare sempre un po' sulle cifre, ormai si fanno sondaggi anche sulle percezioni degli italiani. Oggi ce n'è uno che è appunto condotto da Nicola Piepoli sulla Stampa. È ovvio che il 37% degli italiani tema il contagio. Forse dopo le parole di Mattarella di ieri saremo un po' meno allarmati, perché non è detto che dobbiamo essere tutti contagiati. Comunque il 37% degli italiani teme il contagio e 6 italiani su 10 sono a favore delle misure prese dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. E anche questo, secondo me, va nella stessa direzione. Se vedete altri sondaggi, quelli sono stati fatti sulla politica, per esempio, il partito che si avvantaggia un po' di più in questa settimana, i due partiti che si avvantaggiano un po' di più questa settimana sono i due partiti, diciamo, più forti del governo, Partito Democratico e i 5 Stelle, e quelli che vanno peggio sono quelli che invece hanno segnalato un eccesso di aggressività nei confronti. Si vede che l'opinione pubblica italiana in questo momento dice: ragazzi, per favore, non ci scocciate, stiamo uniti e pensiamo a come uscire da questa emergenza. Sì. Oh, qua qualche ascoltatore ci scrive, come spesso accade in questi giorni, c'è una sorta di conto alla rovescia per il vaccino. Guardate che i tempi saranno lunghi comunque, medio lunghi i tempi per un eventuale vaccino. A me, devo dire la verità, quello che interessa più in questo momento è una cura, ossia che si trovi un antivirale che riesca a contrastare gli effetti del virus. Con tutti i curati, no, che sono usciti ormai dagli ospedali, evidentemente anche l'antibiotico, quello che evidentemente deve essere stato somministrato loro, sono guariti. Antivirale, non antibiotico, precisiamo, no Maria? Antivirale. Funziona evidentemente, se no non sarebbero stati riconsegnati alla loro vita normale. Qualche vostra voce, continuate a mandarcela al 349-238-6666 e poi anche l'800-24-0024 se volete intervenire in diretta, via. Che il governo spieghi agli italiani perché questa paralisi totale, dalle discoteche fino alle partite di calcio, passando per tutte le attività ricettive, creative e di ristorazione, perché se debelliamo questo virus in un mese o lo arginiamo, dopo l'economia si riparte, ricresce, no? Ridecolla. Ma che lo spieghino gli italiani, perché sono impauriti. Come si può fare per un virus che ha fatto 150, non so, 170 vittime, con un'età media di 81 anni, per parlare, per fare audience? Voi giornalisti del cazzo, avete bloccato un paese. Fino a che il coronavirus viene visto in televisione, la maggior parte delle persone non rinuncia alle abitudini, e quando sarà vicino di casa a essere colpito, allora sì che la paura prenderà il sopravvento. Ma io non credo che gli italiani non rinuncino alle loro abitudini, in parte perché le parole del presidente Mattarella ieri sono state molto pacate. Ha detto semplicemente: attenetevi alle istruzioni. Il nostro ascoltatore di prima diceva: qualcuno ci spieghi cosa bisogna fare. È stato spiegato in 1800 miliardi di volte che bisogna attenersi a delle istruzioni. Vedo che comunque la gente ci sta, nessuno si preoccupa più se tu non gli dai la mano o non bacia. Permetti una cosa, l'ascoltatore diceva un'altra cosa, diceva: spiegate perché vengono prese queste misure. L'abbiamo spiegato, l'ha spiegato anche il governo, ma lo rifacciamo volentieri. Vengono prese per abbassare la curva di diffusione dell'epidemia da coronavirus e per evitare appunto che ci siano troppi contagi e che gli ospedali non siano in grado di gestirli. È molto semplice il motivo per il quale si stanno prendendo delle misure così drastiche e così pesanti. E in questa cosa, fammelo dire, i giornalisti non c'entrano nulla. Le misure drastiche sono state prese e sono effettive. Ci sono i ragazzini a scuola in alcune regioni per un mese, probabilmente si andrà avanti fino ad aprile. I giornalisti c'entrano perché, in un certo senso, come citavo prima i media francesi, ci sarà un motivo se Liberation apre sulla competizione tra le due sindache di Parigi invece che sul fatto che sono aumentati anche in Francia i morti. Avete sentito sulle prime pagine dei quotidiani francesi che c'è anche la loro zona rossa? Anche loro hanno una zona rossa molto vasta. Mi pare che il paese al quale si riferisce questa zona rossa si chiama Criol, una cosa di questo genere, ma nessuno l'ha piazzata in prima pagina. Non fanno 15 pagine sul coronavirus. Su questo mi sento di dare ragione al nostro ascoltatore. È ovvio che bisogna parlarne. Un po' più di ridimensionamento delle cose. Ci sono 11-12 volte i casi che sono verificati al momento in Francia, quindi insomma anche di questo andrà tenuto conto. Non è che possiamo ignorare questa cosa. Ignorare no. Ridimensionare magari sì, non è che la ignorano, sta sulla prima pagina pure delle Figaro, ma è come se ne parla e la quantità di notizie che vengono. Io continuo a dire che è il come se ne parla, alcune, non è, non è, no, è come, non è beh, lo stai, stiamo dicendo la stessa cosa, spazio. Come se ne parla. Se tu racconti, per esempio, come sta cambiando la vita degli italiani, secondo me è molto interessante, sta cambiando, basta vedere come festeggeremo o non festeggeremo l'8 marzo noi ragazze, tanto per dirne una. la tradizionale, no, cerimonia con la quale il Presidente della Repubblica riceveva centinaia di donne che si sono segnalate, ed era, è sempre stato un bellissimo evento, molto allegro e molto partecipato. E beh, questa domenica non ci sarà, giustamente, sì, perché se il messaggio è evitiamo gli assembramenti, sì, beh, centinaia di donne che salgono le scale del Quirinale si possono e non ci sarà nemmeno la polemica, lo festeggiamo, non lo festeggiamo, perché non si festeggia. Allora, i comportamenti, sentiamo questo piccolo passaggio di audio che poi ve lo devo spiegare, sono 10 secondi, si capisce molto bene a vederlo, non si capisce tanto bene in radio, ma ve lo spiego, Allora, le risate che sentite è una riunione del governo tedesco. Angela Merkel si avvicina a Horst Seehofer, che è il ministro dell'interno tedesco, gli allunga per stringergli la mano e Seehofer non gli dà la mano e la tira indietro, perché ha detto: perché finché finisce questa emergenza non do la mano a nessuno. E ovviamente tutti scoppiano a ridere, perché insomma non dà la mano alla cancelliera tedesca. Anche queste sono piccole abitudini, Maria, che sono destinate a entrare. Vedo che nessuno si offende più, e se io in questi giorni dico guarda la mano no, ma giochiamo su questo, ci facciamo dei grandi baci a distanza, così ciao, sì, come i bambini. Poi c'è anche Donald Trump, sentiamo Carmelo. I haven't touched my face in weeks. In weeks. I miss it. Sono settimane che non mi tocco la faccia, mi manca. Devo dire che questa è la cosa più difficile in assoluto. Lo diceva, narciso, Però lo dicevamo stamattina. No, Maria, guarda, io è proprio narciso. Da quando mi hanno detto che non devi toccarti la faccia, mi sono accorto di quante volte me la tocco. Anch'io, durante la giornata. Tantissimo. Sto diventando matto perché mi dico non lo fare. E però, poi finisce. Secondo e poi me, finisce Trump si dispiace di non poter toccare la faccia, perché si vuole così bene, che ogni tanto si accarezza da solo. Si accarezza, si dà i baci, si auto dà i bacini. Chissà se. Non credo che sia possibile, no, ci vogliono dei labbroni. Pausa e poi parliamo innanzitutto dei problemi delle famiglie e quello che ci vuole per aiutare le famiglie in una fase nella quale si troveranno presumibilmente per un altro mese con i figli a casa. Tra poco. Mattino. Le 8:33 e parliamo di quelli che sono i problemi delle famiglie che adesso si trovano ad affrontare una fase complicata per tutto quello che succede e in più perché i figli sono sostanzialmente a casa da scuola. Gigi De Palo, presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari, per ragionare un po' su quali sono le vostre proposte, le vostre idee, insomma che cosa bisogna fare per aiutare le famiglie. Buongiorno De Palo, benvenuto. Buongiorno a tutti. Prego Maria. Buongiorno. Uno degli aspetti che tutte le famiglie stanno affrontando in questo momento è: se non ho la possibilità di restare a casa, alcune aziende la danno, per esempio oggi è notizia che anche la Ferrero dà la possibilità di restare a casa, di fare smart working 3 giorni alla settimana se si hanno bimbi piccoli. Se questa possibilità non viene data, perché ci sono dei lavori che non puoi fare in smart working, la possibilità di ricorrere a una babysitter è essenziale, non tutte le famiglie se la possono permettere. Come si potrebbe organizzare questo sistema, perché poi anche mettersi a cercarla una babysitter non è facile. Avete una proposta concreta sul fronte aiuto per i figli se i genitori non possono restare a casa? Allora, noi innanzitutto andiamo a trovare le risorse anche associative in questo senso, quindi ci hanno scritto tante persone che c'è anche un numero limitato di babysitter rispetto agli 8-9 milioni di bambini che stanno a casa, quindi il problema non è solo economico ma anche di reperimento di babysitter, quindi noi consigliamo comunque di mettersi insieme limitatamente con numeri bassi, perché altrimenti sarebbe inutile, no, questa prevenzione relativamente alle scuole. Quello che noi diciamo al governo è di trovare, c'erano prima dei voucher sulle babysitter, la difficoltà però è proprio quella di dare anche delle risposte, mi permetta di dire, a chi non ha un lavoro dipendente, ma chi viene, chi ha le partite IVA, oggi in Italia sono tante le persone. Un tema enorme, prego. No, è un tema enorme proprio perché sono la prima causa di povertà in Italia è la perdita del lavoro del capofamiglia, la seconda è la nascita di un figlio. Se noi a questa nascita di un figlio andiamo a legare anche dei contratti che non hanno alcune tutele e soprattutto dei contratti in base ai quali, se tu vai a lavorare bene, ma se tu non vai a lavorare non hai nemmeno le risorse a disposizione per permetterti non solo la transizione, ma anche di arrivare alla fine al mese, allora ci rendiamo conto che questo paese utilizza e sfrutta le famiglie in maniera sbagliata, perché se si fossero fatte politiche familiari in passato, nel recente passato, molto probabilmente avremmo meno problemi oggi, mentre invece oggi alle famiglie gli si chiede di stare a casa, di stare giustamente con i bambini, e siamo tutti d'accordo nel fare un fronte comune in questo senso, e poi gli si chiede anche di andare a lavorare. Allora, c'è un vecchio proverbio che dice che Noè faceva e costruiva l'arca quando c'era il sole. Oggi noi ci rendiamo conto che non si è fatto questo, e quindi alle famiglie che sono la spina dorsale del paese viene chiesto l'impossibile, quindi chiediamo che il governo abbia massima attenzione anche con misure molto concrete. Ma De Paolo, mi scusi, ma le sembra il caso questa storia delle piccole aggregazioni di famiglie in una situazione di questo genere? Io, per carità, capisco che poi uno si debba organizzare, però mi pare una cosa un po' strana. Guardi, io no? Non sono favorevole, ma le dico che questo è quello che avviene. Noi quando possiamo cerchiamo di dire che è meglio di no, ma quando una famiglia deve prendere una babysitter con due figli, e questa babysitter costa, rifacciamo i conti della serva, e questa babysitter costa grosso modo 10 euro all'ora, per 7 ore sono 70 euro, è più facile per una famiglia prendere altri 3-4 magari amichetti, quindi numeri limitati, ripeto, non classi, e suddividere magari due babysitter che costano invece che 70-80 euro 40 euro, questo è quello che avviene, io non dico che sia giusto, noi cerchiamo di dire, anzi, le dico io ai miei figli, ho problemi proprio perché sto dicendo che non è che se stanno a casa per la quarantena poi devono uscire, quindi io sono uno di quelli anche abbastanza rigidi, perché dice facciamo fronte comune per questi 10-15 giorni quanto c'è da fare, e poi avremo tutti i benefici del caso per una ripartenza reale. Però sì, anche perché stiamo in zona vacanze di Pasqua, quindi è possibile che tra una settimana e l'altra si arrivi alle vacanze di Pasqua con problemi seri, ripeto, per le famiglie, per l'istruzione che si perde, perché perdere un mese di scuola non è una passeggiata. E, a proposito dei sostegni sempre alle famiglie, a parte la babysitter, emerge questa mattina, ne abbiamo avuto anche traccia sui giornali, il fatto che le lezioni a distanza, di cui pure abbiamo parlato anche qui a 24 mattino, in realtà sono abbastanza complicate da realizzare. Eppure questo è un aspetto, perché se i genitori avessero anche i figli impegnati a distanza, pure in remoto con la scuola, sarebbe come dire, un po' di tempo occupato, mentre invece queste lezioni non si fanno e i genitori si stanno improvvisando a loro volta maestri, ma non tutti ne hanno la possibilità o la capacità. Io infatti a casa noi abbiamo trovato metodologie di cogestione, visto che c'era la cogestione a scuola stiamo ragionando di farla anche noi. È chiaro che non è automatico, però è una grande opportunità questa, proprio per ritrovarci tra 15-20 giorni, quando sarà un paese un po' innovato in questo senso, perché se noi aspettiamo sempre di fare i cambiamenti quando c'è il vuoto spinto, che in natura non esiste, questi non si fanno mai, quindi noi diciamo sempre che sicuramente ci saranno delle difficoltà adesso, non è che le scuole sono pronte così in 4-4-8 a risolvere questo tipo di problema, anche se le dico che sono arrivate indicazioni anche dalle scuole dei figli anche abbastanza serie, quindi adesso vediamo un po' come poi si concretizzeranno, ci vuole un po' di pazienza da parte di tutti. Se posso tornare sull'argomento anche precedente relativamente ai costi, se dovessimo arrivare a dopo Pasqua, i costi sarebbero molto elevati, perché solamente questi 10 giorni, noi abbiamo fatto i calcoli, costeranno 800-900 euro una famiglia media con due figli, quindi arrivare poi ad altri giorni, arrivare a 20-30 giorni, questi costi si vanno a moltiplicare e possono diventare di 3-4 mila euro, laddove, ripeto, non c'è nemmeno la possibilità di andare a lavorare, quindi questo diventa un problema concreto e reale. Per questo noi abbiamo detto anche sospendiamo e congeliamo il mutuo della prima casa, delle famiglie, in modo tale che le famiglie possano avere un po' di liquidità, cioè questo mese non pagano il mutuo, le famiglie hanno fatto tanto per le banche negli anni scorsi, le banche se possono fare un sacrificio per questo periodo di emergenza sarebbe gradito, e in questo modo le famiglie possono sì. avere queste risorse. Perché si fa prima, certo, si fa prima a incassare appunto il mutuo non pagato piuttosto che aspettare che poi lo certo. Stato ti rimborsi sì. la babysitter. Sì. Lei ha compreso alla perfezione la nostra preoccupazione. Anche noi, ci scrive un ascoltatore, un'ascoltatrice, ci aggreghiamo in più famiglie prendendo ferie a turno. No, non lo fate, cioè è una cosa che in questo momento non va fatta, molto semplicemente. È il grande tema nel quale parlavamo prima, Maria, il tema della responsabilità individuale di fronte a una questione che è problematica, appunto. Quella è una cosa che non va fatta, cioè capiamo le esigenze, capiamo le necessità, ma è una cosa che non va fatta. Un altro ascoltatore dice: perché non si usano i canali televisivi per le scuole? La RAI, servizio pubblico, potrebbe destinare un suo canale per fare in questo modo, molto più semplicemente che con il remoto da ciascun istituto scolastico, potrebbe destinare 2 ore alle elementari, 2 ore alle medie e 2 ore ai licei. Sto improvvisando, sì. Però farebbe servizio pubblico. Allora, lo stanno facendo, ci dice Gloria Guerrera su Rai Play. Nessuno lo ha comunicato. Grazie, Gloria, perché è importante che i genitori sappiano che se vanno su Rai Play trovano delle lezioni. Andremo a vedere di che tipo. Allora, qualche voce, sentiamo. Carmelo Lauricella, vai. Hanno chiuso le scuole, giustamente, però i centri sportivi li lasciamo aperti, così la gente che va pagato i corsi può continuare ad andare, ma personalmente trovo incoerente portare mia figlia a farsi 1 ora e un quarto di attività sportiva in cui suda con altri bambini in stanza chiusa, quando poi a scuola ovviamente non ci va. Ah, io non lo so, qua a Milano i centri sportivi sono tutti chiusi, gli allenamenti sono tutti bloccati, anche a Roma, anche dei ragazzini. Anche noi. No, anche da voi De Palo, sì. Anche a Roma. Sì, sì, anche mia figlia ha ricevuto una comunicazione via WhatsApp e via mail, in base al quale tutte le attività sportive, sono tante, sono bloccate. Sì, quindi se qualcuno lo sta facendo, evidentemente sta violando le norme. De Palo, pensa che ci debbano essere delle misure specifiche per partite IVA e autonomi che si trovano in questa situazione di difficoltà? E che cosa? Io credo di sì. Ripeto, questo discorso del mutuo può essere una soluzione, o comunque limitare, fare un ragionamento poi a fine anno su il reddito e quindi sul pagamento dei contributi di queste realtà, perché oggi sono il 20%, la maggior parte dei quali sono padri e madri di bambini, perché sono, diciamo, i contratti atipici sono per lo più per le generazioni che oggi sono quelle che hanno l'età per fare figli. Quindi in questo senso noi dobbiamo renderci conto che il bene comune non è la somma degli interessi particolari, ma è qualcosa in più, e questo dobbiamo riscoprirlo come nazione. Questa è la grande sfida. Però ecco, se tutti si attengono, io credo che sia importante dare anche delle indicazioni concrete, dei consigli utili alle famiglie, perché altrimenti veramente questo discorso delle aggregazioni, che posso comprendere che è sbagliato, e ripeto, a casa mia non si farà e non si sta facendo, però viene automatico farsi, proprio perché non c'è un'indicazione chiara. E quindi si pensa, no scuola, quindi posso fare come meglio credo, mentre invece no scuola, stiamo un attimino a casa, stiamo tutti tranquilli, stiamo fermi per, lo ripeto, i giorni necessari, in modo tale che poi si possa ripartire tutti insieme con la stessa energia, anzi con un'energia maggiore, e valorizziamo questo tempo che stiamo perdendo non come un tempo perso, ma come un'occasione per innovare un paese che avrebbe bisogno di fare una riflessione seria. Su questo siamo assolutamente d'accordo, ne abbiamo proprio parlato ieri. Se questo momento non viene colto come un'opportunità per digitalizzare davvero il paese, beh, ne pagheremo le conseguenze. Se posso dire una cosa, l'ultima, non solo digitalizzare, ma anche fare politiche familiari. Perché questo paese, se avesse avuto delle politiche familiari serie, lungimiranti, questo problema di cui stiamo parlando oggi non ci sarebbe. Faccio un esempio: se ci fosse stato l'assegno unico che abbiamo chiesto a tante più riprese, oggi le famiglie avrebbero 250 euro a figlio al mese, che comunque sono una cosa molto concreta in una situazione come questa, dove non c'è da inventarsi emergenze, non c'è da inventarsi bonus, ma ci sarebbe comunque un piccolo tesoretto con un figlio, con 2 figli sarebbero 250. Sono piccole cose che in tutta Europa vengono fatte, e a cui le famiglie viene richiesto molto di meno di quello che viene richiesto in Italia. La famiglia è il nostro petrolio e lo stiamo dilapidando. Allora, grazie a Gigi De Paolo, presidente nazionale del Forum delle Associazioni Familiari. Colgo l'occasione perché molti ascoltatori ci stanno scrivendo in merito al tema palestre e centri sportivi. Allora, il decreto firmato dal governo prevede questo, prevede che possono riaprire a patto che siano in grado di far rispettare la norma della distanza di un metro tra le persone, ok? Quindi non è che il centro sportivo mette un suo poliziotto dentro che controlla la distanza di un metro, deve essere in grado di far rispettare questa distanza. È chiaro che poi qua ci sono evidentemente dei margini di interpretazione che sono possibili, che fanno sì che molti ci scrivano: la mia palestra è chiusa, e altri ci dicono invece: io mi alleno, sono a Venezia e mi alleno regolarmente. Per esempio, regolarmente. Qualcuno ci dice che in un'attività sportiva all'aperto le cose vanno avanti senza chiusura. Chiede Rosi, forse perché è all'aria aperta? Forse sì. Non lo so se il metro di distanza all'aria aperta viene rispettato o meno. Allora, meno 64% Milano, meno 57% Trieste, meno 50% Venezia, meno 50% Torino, meno 49% Bologna. Sono i dati dell'occupazione delle camere di hotel pubblicate oggi dal Sole 24 Ore a pagina 6. Lorenza Bonaccorsi, sottosegretario di Stato del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, poi mi si spiccerà la lingua ad un certo punto, comunque ecco. Eccoci, Bonaccorsi, buongiorno, eccola. Buongiorno a voi, buongiorno. Prego Maria. Buongiorno, da più parti si richiede un intervento immediato del governo sul fronte degli investimenti agli albergatori, d'accordo, ne parleremo tra un minuto, ma sul fronte della comunicazione sarebbe piuttosto urgente comunicare, organizzare un bando di gara tra agenzie di pubblicità e comunicare primo a tutti i turisti al mondo che non corrono rischi se vengono in Italia, e secondo trovare anche un sistema di rendere più appetibile questo viaggio in Italia. Lorenza Bonaccorsi, ci state pensando? Buongiorno, sì, ci stiamo pensando, anche se è vero che è chiaro che serve urgenza da questo punto di vista rispetto alla costruzione di un piano per il rilancio dell'immagine e di comunicazione del nostro paese, ma che deve andare assolutamente in parallelo rispetto alla situazione in cui siamo. E non è che possiamo adesso lanciare un messaggio va tutto bene, noi comunque dobbiamo da una parte dire: l'Italia è un grande paese, venite, venite qui, però dobbiamo lavorare sull'emergenza coronavirus. È un discorso che va fatto con grande equilibrio rispetto al... È vero, sottosegretario, ma lei sa che comunque noi tutti ci auguriamo che in un paio di mesi la situazione potrà essere certo, tornata. Però il turismo va programmato con anticipo, perché poi le grandi agenzie del turismo la programmazione la fanno per il prossimo mese di luglio, bisogna lavorare ora. Diciamo che il vero dramma è che il turismo viene programmato in tutto il mondo proprio nei mesi di gennaio e febbraio, che sono quelli in cui noi abbiamo avuto stiamo avendo ovviamente l'emergenza, quindi è chiaro che da questo punto di vista è un tema, tant'è che ad esempio la grande fiera del turismo di Berlino, l'ITB, è stata annullata, oggi doveva essere in corso ancora, no? Da mercoledì scorso, 150.000 presenze, di cui tra l'altro per noi un mercato fondamentale, il 25% delle presenze complessive dei turisti del nostro paese, il mercato tedesco, sarebbe dovuto svolgere proprio in questi giorni. Quindi è chiaro che sono dei mesi fondamentali e cruciali, e quindi da questo punto di vista noi dobbiamo fare in modo di essere pronti quando l'emergenza finisce. Il tema è che nessuno sa quando l'emergenza finisce, quindi ecco, questo è l'attenzione che cercavo di spiegare, sì. Perché non abbiamo la certezza che l'emergenza finisce, quando, come, la data esatta. Quindi da una parte stiamo lavorando sia con Enit che con ICE che con il Ministero degli Esteri, e con tutta l'amministrazione ovviamente statale insieme e con le regioni, perché come sapete bene la competenza della promozione turistica nel nostro paese è tutta regionale, no? Sì. E quindi dobbiamo fare un lavoro complessivo, e la raccomandazione che io ho dato anche 2 giorni fa a una riunione che abbiamo tenuto al Ministero degli Esteri con tutte le amministrazioni e le parti sociali è di parlare tutti con una sola voce. L'importante della comunicazione è un messaggio univoco, insieme e in una direzione, tutti insieme, soprattutto rispetto ai grandi appuntamenti, se saranno confermati, ovviamente noi ci auguriamo di sì, ad esempio di Expo Dubai 2020, sì, che dovrebbe partire a ottobre, quindi quello è sicuramente un appuntamento importantissimo per noi. Sì, è chiaro che dobbiamo lavorare anche per questa estate, sempre ovviamente sperando che la situazione si migliori. Ecco, Bonaccorsi, però c'è un'altra questione che secondo me è urgente tanto quanto la programmazione. No, non mi tossisca così, che poi ci spaventiamo tutti. Allora, no, c'è una questione urgente. Urgente tanto quanto la programmazione. È urgente tanto quanto la programmazione. Ed è la situazione attuale degli alberghi, di chi si occupa di turismo quotidianamente. E il rischio è: arrivi alla stagione estiva e alla stagione estiva hai una serie di alberghi, di bed and breakfast, di ristoranti che sono sostanzialmente falliti o sull'orlo del fallimento. Su questo fronte, quanti quattrini siete in grado di mettere in campo? Come intendete aiutare le aziende? Sì, il tema è che il turismo è un mondo, è un comparto fatto di piccole e medie imprese, quindi c'è il rischio che non ci arrivino proprio all'estate, come diceva lei, esattamente. Quindi è chiaro che dobbiamo innanzitutto intervenire in maniera rapida, così come ci hanno chiesto tutte le associazioni di categoria, sulla liquidità, e quindi con la sospensione, ad esempio, degli oneri, del pagamento degli oneri contributivi, assicurativi, ci è stato chiesto l'intervento della sospensione sui mutui. E poi con degli strumenti. E questo lo farete, Bonaccorsi? Sicuramente sono tutte misure che sono all'interno dello studio del pacchetto di intervento che il ministro Franceschini su cui sta lavorando con il ministro Gualtieri, che hanno assolutamente presente l'allarme del comparto turistico. Questo abbiamo fatto, io tengo tanti incontri e tavoli di crisi con le associazioni, perché ritengo che davvero sia un momento eccezionale, e il comparto del turismo c'è un altro aspetto, sottosegretario, che è quello dei voli. Abbiamo letto nei giorni scorsi che per esempio una compagnia, Ryanair, ha cancellato molti voli perché arrivavano semi vuoti. Il fatto di non avere ancora venduto agli stranieri, all'Italia, forse in questo momento ci può essere anche di qualche utilità. Voi avete delle cifre sul fatto che, per esempio, all'Italia, che continua a fornire il servizio di voli, ne sta ricavando un vantaggio o uno svantaggio, perché comunque non arrivano turisti? No, comunque non arrivano turisti. Anche all'Italia ha cancellato e sta cancellando tantissime destinazioni. È un tema di crollo del mercato da tutti i punti di vista. Però volevo aggiungere un'altra cosa alle misure eccezionali per far fronte alla crisi. Un altro tema fondamentale per il mondo del turismo è che è un mondo che non ha la cassa integrazione. E quindi dobbiamo intervenire anche lì, invece, estendendo la misura della cassa integrazione e del fondo integrazione salariale. Quindi c'è l'ipotesi di estensione della cassa integrazione al settore alberghiero? È un tema fondamentale su cui appunto dovremmo intervenire, non solo sul sistema alberghiero ma anche su altri comparti. Abbiamo il sistema alberghiero, ex alberghiero, abbiamo il tema ad esempio delle agenzie di viaggio, dei tour operator, delle guide turistiche, sono tutti lavoratori a partita di IVA autonomi, e quindi oggi sono davvero in grande difficoltà, stagionali. Insomma, è un mondo ovviamente con un impiego stagionale spesso e volentieri e non garantito, così come i lavoratori dello spettacolo, insomma è chiaro che il nostro comparto è molto in difficoltà. Dobbiamo chiudere, grazie a Lorenza Bonaccorsi, sottosegretaria ai beni e alle attività culturali e al turismo, per essere stata con noi. Buona giornata, cara Maria, ci risentiamo lunedì. Speriamo di riavere il sottosegretario Bonaccorsi quando le misure andranno approvate. Meglio anche per tutti coloro che ci stanno ascoltando e stanno nei ristoranti e negli alberghi. Sì, e anche con le misure approvate magari. Allora, cara Maria, ci sentiamo lunedì alle 8:20. Buon 8 marzo a tutte e vi aspetto domenica. Con nessuna è perfetta, mi raccomando. Carmelo Lauricella, regia, Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli, Gloria Guerrera in assistenza e redazione, Margherita Ine e Francesco Ceraffo i nostri autori. Ci risentiamo per quanto ci riguarda lunedì alle 6:30. Ciao.